www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli è scoppiata la moda di avere le piume marroni, Cappa e Drago fanno un dialogo filosofico. Scusa, ma se fossimo noi che non ci siamo mai... Drago, stai attento dove vai. Scusa, ti sto parlando. È ancora ti la stavo macchina. Lo so, la macchina. Però, insomma, se stai vicino a me non ti schianti. Va bene. Allora, ti stavo dicendo, potrebbe essere che siamo noi che non ci siamo mai accorti che il pollo in sbattimento e Tarek sono marroni. Non siamo mica così rincoglioniti, no? Ma... E poi ti dico di no, dai, sono sempre stati bianchi, si sono tinti per fare i fighi e adesso sono marroni. Vabbè, ma negano, negano di essere mai stati bianchi? Vabbè, ma sai, per lo status symbol. Ah, lo status symbol. Sì, perché essere marroni in fabbrica adesso ha assunto un significato che possiamo paragonare a quello che per noi uomini è essere magri o essere abbronzati. Come me. Come te, ecco. Esatto. E cosa vuol dire? Così esprimi che... Vita sana. Vita sana, vita a contatto con la natura. Certo. Fuori dai luoghi di lavoro. Questo cosa vuol dire? Che sei abbastanza ricco da poterti permettere di non lavorare, stare in vacanze, abbronzarti, eccetera, eccetera. E qui in fabbrica vuol dire che stai fuori dalla prigione, capito? Un po' un significato così. Però questo nuovo trend assomiglia un po' alla rivoluzione culturale di Mao Zedong. O Mao Zedong. Zedong. Oppure alla rivoluzione Khmer di Pol Pot. Questo trend, ma che cosa stai dicendo? Ma sì, Drago, tutti i professori, gli scienziati, gli intellettuali che stavano sempre a studiare o a insegnare ed erano pallidi e malaticci, venivano presi e spediti a lavorare nelle cooperative di campagna a contatto con la natura, dove si abbronzavano e facevano una vita sana. E funzionava? Ma certo, abbronzarsi si abbronzavano, però morivano come mosche. Ah. Non gli davano da mangiare. La fabbrica di polli. Colastri, se c'è una cosa di voi che mi dà fastidio è la disattenzione. Ma di cosa parli? Il pollo sbattimento? No, ma non è mica possibile che io venga a sapere adesso che voi non vi siete mai accorti che io ero marrone. Vabbè. Eppure qua luce ce n'è. Vabbè, ma io ci vedo poco per la sospetta corioretinopatia centrale sierosa. Sì, lo sappiamo. Appunto, allora, diciamo che tu sei giustificato. E K? No, K, tu. Con quegli occhiali tu dovresti vederci molto meglio di un'aquila. Infatti io con gli occhiali ci vedo benissimo. E mi ricordo che tu eri bianco. Ma le prove le hai? Ma quali prove? Le prove? Quali prove? Le prove che io ero bianco, no? Una foto, un video, no, qualsiasi cosa. No, non ce le ho, mi spiace, non ce le ho. Però cosa c'entra? Me lo ricordo. Scusa, allora è la mia parola contro la tua. E allora chi vince? Vabbè dai, comunque stiano le cose, Pollo. Alla fine chi se ne frega se sei sempre stato marrone, se prima eri bianco. Insomma, sentire da come ti esprimi, dai ragionamenti che fai, eccetera, mi sembra chiaro che il colore del tuo piumaggio non ha cambiato la tua personalità. Sei sempre il solito bastardo di sempre. Piano con le parole, Hai detto chiaro? No, ha detto bastardo. Ha detto bastardo. No, ha detto anche chiaro. No, ho detto che mi sembra chiaro che il colore del tuo piumaggio, eccetera, eccetera, no? Ecco, appunto. Cioè, il colore del mio piumaggio ti sembra forse chiaro? No, è mogano, color mogano. Sì, lucido da scarpe. Ah, ecco, no, volevo dire. No, perché io di chiaro non mica niente, Il mio stile di vita mi impedisce di essere bianco. Sempre a beccare mangime nell'aia. Mi sveglio la mattina e faccio un bel chicchirichì per svegliare la fabbrica. Poi metto a posto quelle 3-4 gallinelle che mi fanno gli occhi dolci. Tarek! È morto. Ma non è vero, pollo, tu sei sempre qui nella fabbrica, non sei un pollo che vive all'aria aperta, non sai neanche cosa sia l'aria aperta. Tu ti svegli tutte le mattine qui, ti ingozzi di paroxetina per non andare in sbattimento, e le gallinelle, ma quali gallinelle? Le gallinelle qui dentro durano 3 giorni, poi le ammazzano. Dai, pollo, smettila di raccontarti balle. Ma sì, pollo, dai, non basta tingersi le piume per diventare un pollo di campagna. Ma voi volete farmi diventare pazzo? No, vabbè, tu sei io pazzo. Io sono un pollo di campagna. No, tu sei pazzo. Io sono un pollo di campagna. No, niente, K, è impazzito. È come una gravidanza isterica, come uno sdoppiamento di personalità. Adesso è convinto di essere un pollo marrone, come se significasse questa cosa. Io sono un pollo marrone. Un pollo marrone della Concicina. Della? Della? No, no, perché... Un pollo marrone della Cocincina. Ah, ecco. Della Cocincina. Della Cocincina. E guarda che so camminare avanti e indietro. Sta a vedere, guarda un po'. Guarda che roba. Come il famoso pollo di Flannery O'Connor, sì, perché anche lei aveva un pollo marrone della Cocincina. Ma no. E anche lui camminava all'indietro. E vedi? Solo che è morto quasi subito. È morto. Cocincina. Cocincina. No, madonna, ma quando parli di questa Flannery O'Connor, alla fine c'è sempre qualcuno che muore. Io non so neanche cosa vuol dire essere bianco, Non so nemmeno se il bianco sia un colore. Ma il bianco qual è? È quello che hai tu sulle piume, sotto lo strato di tinta marrone. Guarda che io sono talmente marrone che adesso mi ribattezzo Bobby Brown. Un nome... E visto che Drago adesso si chiama Blind Chicken Drake. Sono io Blind Chicken Drake. Io adesso mi chiamerò Bobby Brown. Non Blind Bobby Brown. Bobby Brown in sbattimento. Other people, I'm Bobby Brown. They say my name is Battimento now. My car is fast, my plume is shiny. I tell all the chicks they can kiss my honey. Esagerando con la proxetina, Sai cosa mi dà soddisfazione? Sapere che questo è il primo blister di 2 scatole. Ne ho ancora 3 blister. Capisci? E io sto bene solo a guardarlo, non la prendo neanche. Paroxetina. Aia! Drago! Aia! Ma smettila! Poi continui a ruzzare! Ma cosa ruzzi? Cosa vuol dire ruzzi? Dritto! Cosa vuol dire ruzzi? Ruzzare vuol dire quando uno ti cammina e ti stringe tutta la strada. Ti taglio addosso. La strada, no, sempre fatto. L'ho già detto, Drago, tu sei cieco. Ho capito. Come cieco, canta il blues. Ancora? Sì, sì. Stavolta Blind Chicken Drago, cioè tu nella versione bluesman, sì, canterà il seguito del suo hit single Shining Scotoma. Oh yeah. Ok? Sì. È una carriera da bluesman, Drago. Bene. Sì. Questa canzone racconta di un tizio che una mattina si alza, sì, e si ritrova completamente cieco. I'm blind. Il sole è tramontato per lui. Oh. Per sempre. Oh no. E come conseguenza del suo essere cieco, cammina per sbaglio sulla nidiata di gattini che mamma gatta aveva appena partorito e li schiaccia a morte. I got up one morning with a flash in my eyes. It wasn't the sun. I was fucking blind. I got a shining scotoma. I can't see a shit. A shining scotoma. I pissed in my fridge. Shining scotoma puts you in a coma. Wear a pajama, take a banana or a salama and stick it down in your ass. Nel paese dei ciechi l'orbo è re. Però Drago, purtroppo questo non è il paese dei ciechi, per cui l'orbo, cioè tu, sei svantaggiato. È handicappato, lo so. Però cosa vuol dire che nel paese dei ciechi l'orbo è re? L'ho già sentita dire questa frase. È un proverbio. Ah, è un proverbio. Sì, vuol dire che quando hai scarsa concorrenza, anche se sei una mezza calzetta, poi alla fine sarai tu a comandare. Si riferisce a Prodi? Che cosa succederà adesso? K e Drago verranno ingaggiati dal bagaglino per sfornare battute esilaranti sui politici nostrani? E il pollo in sbattimento continuerà a credersi un pollo marrone della Cocincina? Cocincina? Lo scoprirete solo domani alla stessa ora su Radio 3 con il prossimo inconcepibile allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muore.